Salve Nanni, le volevo chiedere se andavamo a bere un bicchiere insieme. DJ Sambuca, sei più insostenibile di un film di Strange Days. Strange Days. Strange Days. Ora ti tiro una bottiglia che ho preso ai girotondi. Te la tiro a destra perché tu non te l'aspetti. No, tu ti butti a sinistra, te la tiro a sinistra. No, a destra! Guido Piano.